il tuo nome. Sulla bocca della gente. Lo sentivi. Ti sembrava un gran finale. Avrei voluto ascoltare come vivevi lassù, ora che ci hai lasciato e non ci sei più. Tu lo sapevi, ma non sapevi cosa rischiavi. La tua voce. Mi faceva innamorare. Vuol fegato tu pensi a non aver paura di cadere. Io avrei voluto ascoltare come vivevi lassù, ora che ci hai lasciato e non ci sei più. Tu lo facevi e tu sapevi cosa rischiavi. Gemmi redine, gemmi redine, gemmi redine, gemmi redine. Il tuo corpo mi faceva sanguinare. Che volevi. Entrare a forza ogni notte nei loro sogni sporchi era importante nel tuo mestiere. Tu lo facevi e tu sapevi cosa rischiavi. Mi parlavi d'amore, mentre il tuo fantasma svaniva. Sei come un angelo, un fiore, qualcosa di buono. Sola e sapevi stare al mondo, ma è possibile che tu non avessi paura del dolore? Entrare a forza ogni giorno in quei tuoi panni sporchi era importante nel tuo mestiere. Tu lo facevi e non capivi cosa rischiavi. Ti ha perso il rogo come fossi una strega. Non si scherza col fuoco quando c'hai 20 anni. Tu lo facevi e non capivi cosa rischiavi. Messa a rogo come fossi una pazza, dentro un mondo di santi sei andata a terra. Tu lo facevi e non capivi cosa rischiavi. Ti ha messa a rogo perché eri più debole, serviva qualcuno da sacrificare. Chi non ti aveva ha preferito farti morire.